Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Militari e civili, vi andiamo con queste nostalgie. Oltre che in civile è inutile, oramai li hanno chiusi. A voi italiani è rimasto questo idiota fisso qui, toglietevelo! Oramai li hanno chiusi! Arrangiatevi! Lasciami perdere, sabato! Basta, c'è testa! Questo era Totò, Cavaliere di Vittorio Veneto, in un film di Bolognini che traccia un ritratto nostalgico di ciò che accadde in Italia all'indomani del 20 settembre 58, il giorno in cui entrò in vigore la legge Merlin, la legge che chiudeva i postriboli di Stato. Perché ritorno su questo argomento, di cui ho già parlato qualche giorno fa? Perché devo dire che statisticamente è stato il tema più seguito dal pubblico, ha avuto il maggior numero di telefonate, il maggior numero di messaggi, il maggior numero di adesione. Avrei ripreso il giorno dopo della puntata a parlarne, perché era rimasto molto in sospeso, ma poi è stato il giorno in cui si è parlato del disastro di Lampedusa, non mi sembrava il caso, anche se non vedo profonde differenze nello scorrere della vita, parlare di morte e parlare anche di sesso. Non ne parlo perché sia una persona particolarmente compulsiva o con una mentalità retro nostalgica da antico puttaniere o perché rimpianga i bei tempi che furono. Tutte le rappresentazioni iconografiche dei casini da Fellini in poi, alle rievocazioni dei vecchi frequentatori, dei flanellisti e degli affezionati, degli innamorati, mi danno una grande tristezza, mi parlano di un tempo di segregazione, di un tempo in cui esisteva una forma ufficiale per praticare una soddisfacente e gratificante attività amatoria e una forma clandestina chiusa, però i fatti evidentemente impongono anche nel nostro paese una riflessione su questo argomento. Le persone che mi hanno chiamato sono variamente composte nei loro pareri, ma mi sembra prevalere l'idea che sia ora comunque si abbassi il velo della pudicizia, ma ancora di più dell'ipocrisia riguardo a questo tema. Sì, perché nell'Italia attraversata da una profonda e lacerante crisi economica, nell'Italia attraversata da delle così profonde e terribili episodi come appunto i continui sbarchi di stranieri che dividono il paese, che non permettono di avere un punto di vista che non sia inquinato comunque dall'ideologia, dalla politica, dai punti di vista legati a situazioni che nulla hanno a che fare con una realtà così cruda, così drammatica. Nell'Italia in cui la politica sembra giocare in piattino, sembra ripercorrere già visti e già esistiti episodi, evidentemente c'è un'opinione pubblica che riguarda questo problema alle idee ben chiare. E quindi oggi vorrei riprendere velocemente a parlare con gli ospiti che l'altra volta mi segnalarono la loro iniziativa, cioè di aprire e sottoscrivere una raccolta firme per un referendum abrogativo parziale della legge Merlin. Il primo degli ospiti era Claudio Cicero, che è un consigliere comunale, capogruppo della lista civica Impegno a 360 gradi del comune di Vicenza. Bentornato Cicero. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Vediamo se lei sa darmi innanzitutto qualche dato. Noi abbiamo sentita come promotore, come fra le persone che hanno per primi lanciato l'idea di proporre un referendum per abrogare in parte la legge Merlin, perché soltanto nella parte diciamo che proibisce una sorta di riapertura delle case chiuse, fermo restando che comunque la prostituzione, lo sfruttamento alla prostituzione, il mercato sulla prostituzione, lo schiavismo legato alla prostituzione sono tutti episodi che continueranno sempre ad essere censurati, immagino, nel buon senso di chiunque, oltre che dalla legge. Assolutamente sì. Ecco, in questa settimana che in Italia sembra essere successo di tutto, dalla grande eclissi del periodo berlusconiano al dramma dei morti che il mare restituisce a grappoli, come è andata la raccolta firme dalle vostre parti, cioè nel Vicentino? Guardi, da noi è andata molto bene, abbiamo superato le 1000 firme abbondantemente in pochissime ore di raccolta, quindi questo la dice lunga sul fatto della coscienza della gente, parliamo della gente di strada, quella normale, del popolo, insomma, no? Che ha le sue idee ben chiare e soprattutto quello che ci ha fatto particolarmente piacere sono le donne con la loro sensibilità che dicono basta questo schifo sulle strade, facciamo in modo che non ci sia questo degrado delle strade. Ecco, in particolare i banchetti dove erano situati? Ma però... guardi, noi eravamo nel centro storico di Vicenza, proprio, anzi oserei dire di più, sotto il municipio, quindi purtroppo lei sa che davanti al Palladio, a fronte Palladio. Davanti in corso Palladio, sì, è bravissimo, proprio nel corso Palladio sotto il municipio, lei sa che le raccolte possono avvenire presso tutti i comuni, invito tutti i cittadini ad andare presso il proprio comune perché possono firmare anche senza il banchetto, però la tendenza di entrare dentro un palazzo per poter andare alla ricerca di firmare frena talvolta questa potenzialità, invece col banchetto in strada, spiegando le ragioni, spiegando le motivazioni, aumenta, diciamo, quello che è la sensibilità delle persone e anche aiuta loro a far sì che... Senta, io le faccio una domanda. Sì. Vicenza è fra le città chiamate le sagrestie d'Italia, c'è ancora questa, sì, questa sorta, sì, di idea. Sì. Vicenza, città che conosco molto bene e frequento, sono se la gira di notte, c'è un via vai di trans, solo che a Vicenza ci vanno i padovani, i vicentini vanno a Padova, c'è una sorta di scambio territoriale. Però diciamo la cosa è ben evidente. Ecco, come ha preso la città, il volto ufficiale della città, questa iniziativa? Assolutamente bene, guardi, io pensavo di essere anche un po' scomunicato in campagna elettorale dal Vescovo e compagnia bella, invece non c'è stata nessun tipo di reazione contro, anche perché credo che tutti, chi ha un po' di sale in testa, è cosciente che la Costituzione non si toglie, la Costituzione va regolamentata, la Costituzione va governata in un certo modo, e soprattutto lo ribadisco, noi siamo partiti dal presupposto dell'aspetto sanitario, del controllo sanitario per la non divulgazione di malattie sessualmente trasmissibili. Lei, Claudio Cicero, aveva già un'idea di tipo logistico, dove costruirebbe, sì, queste città dell'amore, questi luoghi dove la, sì, gente liberamente va, può fare quello che gli pare, però, certo, almeno in un percorso, una sorta di parco giochi organizzato e controllato. Sì. Diciamo che in campagna elettorale io ne avevo già tirata fuori una che era relativamente alla problematica dei singoli e dei padri separati che non hanno casa, non sanno dove andare a finire. Avevo coniato questo termine molto, che è piaciuto moltissimo, la nave statica. Che cos'è la nave statica? Ci sono tanti capannoni, ahimè, purtroppo aggiungo, liberi, vuoti da attività produttive. Sono in zone che non disturbano. Questi capannoni potrebbero essere riconvertiti allestendoli, noti bene, allestendoli come sono allestite le navi, cioè con quei moduli prefabbricati dove c'è il bagno, c'è il letto, ci sono gli suppellettili ideali che sono già di grande produzione, a bassissimi costi, e possono essere arredati questi capannoni proprio come fosse una vera e propria nave. Cioè lei vorrebbe fare dei mega casini nei capannoni con i container, con i moduli, diciamo, come quelli dei terremotati, per capirci? No. Come con i moduli che si costruiscono con cui si costruiscono le navi. Lei quando va su una nave, sia essa da crociera o traghetto... Sì, con una cabina di una nave da crociera. Sì, lei immagini una cabina, magari un pelino più grande perché si può fare, il modulo si può adattare a qualsiasi esigenza, ma dove c'è la doccia, il bagno, c'è... Quindi un grande albergo, diciamo, tutto sommato. Diciamo, ma sì, un albergo che si potrebbe costruire con poche risorse, con... Qualcuno ha già messo a punto un progetto, un architetto ha pensato a disegnare la riconversione di un capannone? Noi stiamo già progettando e possiamo dare in tempi brevissimi la soluzione del problema, proprio perché io l'avevo analizzato anche per altre esigenze che sono non simili, ma che hanno le stesse problematiche, cioè il fatto di avere un alloggio a basso costo, dignitoso, soprattutto per esempio per i singoli e i padri separati che non riescono più, c'è gente che dorme in macchina. Sì, ma lì ci andrebbero soltanto a scopare, non ci vanno a dormire. Beh, ma è certo che sì, che sono due cose diverse, ma le dico, l'idea nasce dal poter recuperare una parte di edilizia che altrimenti è in disuso e in disarmo. Cioè, piuttosto, ma questo è chiaro, piuttosto vedere i capannoni che sono il simbolo più doloroso e tangibile della crisi, le attività imprenditoriali chiuse, lei dice rilancia anche l'imprenditoria, 800240024, primi pareri degli ascoltatori, Maria Luisa. Il mio parere, dunque, ricordo che la Prestigia Giacomo aveva cercato di fare una legge che perlomeno toglieva le prostitute dalle case chiuse, che mi sembra un'aberrazione. E dove le metteva? C'è ancora una forma di sfruttamento a casa loro, una cosa così, si parlava di condominio. Togliere, non ci sono le case chiuse in Italia ufficialmente, No, togliere, perché sento parecchi che vogliono il ritorno alle case chiuse. Sì, vogliono una regolamentazione della prostituzione. che esiste. La Prestigio Giacomo ci aveva provato. E non gli è andata bene. Io personalmente penso che non si debba regolamentare un fenomeno che comunque ritengo contro natura. E in secondo luogo ricordo... E cosa vuol dire secondo natura? Mi scusi, no, solo per capire i termini. Cos'è secondo natura? Nel senso che io non penso che chiunque al mondo voglia fare l'amore con chi pare, non certo. con chi lo paga, semplicemente. Che ma c'è gente che gli piace farlo con chi viene pagato, è un'idea come un'altra. Non... Agli uomini piace farlo, agli uomini, ma sì, le donne sì. lo fanno per necessità. Devo ma chiaro, ma su questo potremmo aprire un'annosissima discussione su se sia lecito o no che la donna venda il suo corpo, che ogni atto sessuale pagato è uno stupro. Sono tutte cose che comunque fanno parte della discussione sul tema, però mi sembrano già superate. Le strade in Italia sono piene di schiave e le case italiane in cui si esercita questa professione sono delle attività imprenditoriali private, basta aprire un sito internet, cercare escort, l'abbiamo già detto l'altra volta, lei ha un campionario con un database diviso per città, per quartiere, per tariffe, con le foto, i filmati, le prove su strada, c'è tutto, quindi esiste la prostituzione. Quindi due sono le cose, Maria Luisa, o mette leggi severissime, manda dei guardiani della rivoluzione come talebani che prendano a frustate chiunque faccia cose del genere o taglino le mani o lapidino, o dice questa cosa va regolamentata, lei come la pensa? Io la penso che è sufficiente prendere un pullman, gli autobus con cui vengono scarrozzati i carabinieri o i poliziotti la mattina, fare per esempio via Salaria, rastrellare, portare tutte le signorine che stanno in via Salaria, li portano nell'ufficio, prendono i nomi, prendono le generalità, poi la sera, al pomeriggio, quando non hanno più che cosa fare, le rimettono in strada, l'indomani uguale, quanto giorno voglio vedere quante ce ne saranno. Sì, ma quelle signorine, la maggior parte di loro, non è che ci vanno lì per loro volontà, se non ci vanno le fanno a pezzi e le bruciano, questo è il problema, questa è la cosa su cui devi riflettere. La vecchia retata alla polizia non ha mai risolto i problemi, nemmeno nei pudibondi anni 50, in cui le cose si dicevano e non si dicevano, capito? Non è mai servito a nulla. Ci sentiamo tra un istante, va, dopo il traffico. Melog, cronache meridiane. Ma tu c'eri de panella, e no, non mi piace de mica così, va mica bene. Namo, su, namo, chi viene a giocare a scacchi in camera mia? Come stai? Oggi non mi va bene. Fiori in fiorello, l'amore è bello, stamattina c'è poi. Devo dire che queste sono immagini romantiche, iconografiche, vecchie, memorie di antichi puttanieri, ma quello che oggi sta accadendo in Italia è... ce n'ha dato testimonianza Claudio Cicero da Vicenza, che anche in aree territoriali in cui non è certo il malcostume, almeno esteriormente, il segno più tangibile delle amministrazioni, si sono stancati e stanno raccogliendo firme. Ci diceva che a Vicenza, nella parrocchia d'Italia, un numero incredibile di donne sta andando a depositare la propria firma per un referendum abrogativo della legge Merlin. Noi ci eravamo sentiti la volta precedente anche con Sveva Belviso, che è capogruppo PDL al Consiglio Comunale di Roma, ex vice sindaco della Giunta Alemanno, che anche a Roma stanno raccogliendo firme per abolire la legge Merlin. Sveva Belviso, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie dell'invito, nuovo invito. No, volevo capire, sapere un po' il polso. A Vicenza ci hanno appena detto che, nonostante giorni abbastanza caldi per l'attenzione pubblica rispetto alle vicende interne alla politica, alle vicende legate alle tragedie degli stranieri e degli immigrati, le donne vicentine sono andate brave brave in fila e stanno raccogliendo un sacco di firme. Avete avuto a Roma qualcosa di simile, o perlomeno un po' di polso rispetto alla vostra richiesta, che può sembrare qualcosa che stride fortemente con una città che ha sempre avuto un forte controllo etico e dottrinario da parte di ciò che esiste oltre Tevere, ma anche a Vicenza pare che anche il vescovo tutto sommato non abbia nemmeno protestato. Da noi non so che cosa si dica oltre Tevere, diciamo così, però devo dire che si sta affrontando con proprio una buona dose di realismo e le persone vengono libere da ogni tipo di tabù politico, anche religioso. E una cosa che abbiamo notato anche noi è sono proprio più le donne che gli uomini che chiedono di intervenire sostenendo il referendum. Noi da adesso, grazie al cielo, anche lo 060606, che è il centralino che dà le informazioni a Roma, riconosce il referendum, perché la scorsa settimana abbiamo avuto problemi anche su questo e quindi le persone possono andare ai vari municipi a firmare. E da questa settimana iniziamo anche a fare i banchetti, tempo permettendo, nelle zone maggiormente colpite dal fenomeno, quindi sulla Salaria, sulla Tiburtina, sulla Collatina, insomma le zone con più difficoltà. Lei si dà una spiegazione, come politico sempre impegnato poi su problemi sociali vicini alle donne, sul fatto che le donne siano le prime a gettare via un velo di ipocrisia rispetto a un problema che sembra risolvere soltanto una voglia maschile di avere sesso a tutti i costi, anche a pagamento e via dicendo? Credo che ci sia un po' tanta ipocrisia anche nel fare questi riferimenti, no? Ci sono uomini che hanno paura a firmare, per paura di essere identificati con, insomma, no? con quella specie che vuole andare a prostitute. Come biechi, diciamo, puttanieri, così. Ma non credo che sia bravo, così. Bravo, io non lo volevo dire. Però insomma ti dicono proprio questa frase ai banchetti, dicono no, sennò poi mi dicono che sono, ed è una, insomma, un'ipocrisia questa. Invece le donne, che sono chiaramente libere di poter pensare quello che credono e poterlo sottoscrivere, vengono con più semplicità. Grazie Sveva Belviso, la lascio, so che ha una riunione. Virginia, una donna, eccola. Sì, Virginia. Buongiorno Gianluca, l'ascolto sempre con piacere. Senta, io lei firmerà per la riapertura dei casini? Assolutamente no. Sono contraria e sono anche indignata che anche donne come la Belviso faccia questa... Perché è indignata? Sono indignata perché, diciamo così, legalizzare, dare una veste socialmente accettata alla prostituzione è un messaggio devastante per le giovani. Io sono donna e madre. No, lei pensa che una giovane, se si vuole prostituire, si senta più invogliata per il fatto che sia legalizzato? Si sente quasi giustificata, non dimentichiamo che i giovani vivono in un grande vuoto di valori. Ora la prostituzione, diciamo, è abbastanza stigmatizzata socialmente. Se i comuni aprissero... Però è anche molto praticata, anche in famiglie normali, da casalinghe, da brave ragazze di famiglia. Non mi pare che sia una cosa che si possa fare a meno di osservare che sia un fenomeno esistente. Sì, che sia un fenomeno esistente, ma che ora lo vogliamo legalizzare, allora perché c'è il lavoro nero, legalizziamolo. L'evasione fiscale, legalizziamola. È sempre un'attività, diciamo, negativa. E quale sarebbe la soluzione, secondo lei, rispetto a un problema che ormai è sotto gli occhi di tutti? Io non ho la soluzione, però penso che la soluzione di riaprire le case sia la più sbagliata possibile. Sono stata ad Amsterdam, ho visto le ragazze in vetrina, lo trovo di un degradante spaventoso, in vetrina come me. Ma lei in che città vive, signora? A Milano. A Milano di notte non le vede per strada. Non le vede i bravi padri di famiglia milanesi che comunque ci vanno. Non è che cambierebbe molto le cose se invece che ragazze obbligate a starci fossero persone che scelgono di loro spontanea volontà di esercitare quel mestiere. Ma secondo lei legalizzandolo e dicendo che è un bene si risolve il problema? Sì, guarda, io non sono nemmeno praticante, quindi non è che telefono per bigottismo. Ma il suo punto di vista, però, rispettabile, mica voglio. Lei dice che è una cosa, è un'idea che esiste, questa, abbiamo detto, che sia talmente detestabile il fatto che una cosa così delicata come la sessualità sia oggetto di mercimonio, che lo Stato non può essere complice di questa idea. Giovanna. Sì, buongiorno. Sì. Io invece sono a favore della riapertura delle case chiuse. A parte che volevo sottolineare il fatto che la prostituzione è legale in Italia, non è illegale, è lo sfruttamento alla prostituzione che sì, non il è punto legale. È quello, sì, sì. Infatti. E l'adescamento, poi... l'adescamento non si può, però sa, una se non se lo scrive addosso e se non si mette, è difficile, capito, individuare. Sì, no, certo, questo è ovvio, però motivo in più per riaprire queste case chiuse, nel senso che se una donna ha nelle piene facoltà mentali sceglie di prostituirsi, io non vedo perché non possa farlo, ma non trovo che sia un messaggio nemmeno degradante per le giovani, insomma, ci sono ragazzine che si vestono più da prostitute che le reali prostitute, questo è veramente sconvolgente e bigotto. Ci sono ragazzine che fanno i giochi via internet per una ricarica telefonica, quindi non è quello il problema. Sì, ma non è quello il problema di fondo, per arrivare a una conclusione in questa puntata, mi sembra aver capito che nella diversità dei pareri comunque il tema è sentito, non è un dibattito artificiale, non è una cosa che solo per moda se ne parli, è un momento in cui fra i tanti infiniti problemi che sembrano affliggerci improvvisamente emerge come una boa, come qualcosa che inutilmente si è cercato di tenere nascosto, sotterrato e sott'acqua, il problema che in effetti come tantissimi altri paesi europei, anche in Italia, forse bisognerebbe affrontare in maniera più laica e meno pregiudizialmente coperta da una sorta di velo di pudicizia anche il problema della prostituzione. Grazie agli ascoltatori, Paolo parlerà un'altra volta. A domani.